Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i periodici in edicola. Si avvicina il Natale, naturalmente, si avvicina la fine dell'anno, è tempo di bilanci, è tempo di tirare le somme, fare chissà propositi buoni o meno buoni per l'anno nuovo. Così non è strano vedere che sui settimanali, sui periodici in genere, italiani e no, fioccano un po' i numeri, i sondaggi, le ricerche, insomma un po' una serie di modi per capire come stiamo, cosa facciamo, dove stiamo andando. Allora, è stato un anno, il 2008, un anno direi all'insegna dei numeri pesanti e negativi per la crisi prima delle borse e adesso del rallentamento dell'economia tutta a livello mondiale. Fa effetto la copertina di Newsweek di questa settimana, mette un numero con una bella fila di zeri, anzi in realtà sulla copertina poi le file di zeri sono addirittura tre, e il numero è, sì, sono 4 trilioni, sono cioè migliaia di, 4 volte migliaia di miliardi. Ci serve una soluzione da 4 trilioni di dollari in questo caso, ma poco conforta insomma l'idea che il cambio ci possa in qualche modo favorire. E la spiegazione di questo gigantesco numero, molto simile a quelli enormi che abbiamo sentito in queste settimane per aiutare le banche, aiutare i settori industriali in crisi, la spiegazione di questo enorme numero è di che cosa il mondo ha veramente bisogno per tornare in marcia, per tornare a manciare. Beh, sicuramente ha bisogno di qualche riforma un po' dappertutto, si parla di riforme, di diverse riforme in Italia e all'estero. Restiamo su Newsweek perché abbiamo già parlato in qualche altra occasione dell'economia cinese, un'economia che continua a crescere ma rallentando rispetto ai ritmi impressionanti degli anni scorsi. Un articolo di Mary Hannock ci informa questa settimana su Newsweek che il problema è avviare una riforma sanitaria, una riforma della sanità in Cina. Perché? Perché la mancanza di una copertura pubblica, viene spiegato da Mary Hannock, fa sì che i cinesi abbiano in qualche modo paura di spendere. Questo è anche il titolo dell'articolo, perché la Cina ha così paura di spendere, e si spiega che avere una riforma sanitaria, una copertura sanitaria integrale, paragonabile, diciamolo una volta tanto, a quello che abbiamo in Italia, sarebbe molto buono per il governo, perché è nell'interesse del governo, spiega Mary Hannock, sviluppare un sistema di sicurezza sociale, una rete di sicurezza sociale rapidamente. Questo stimolerebbe i consumi. I cinesi infatti risparmiano perché sono preoccupati dalla eventualità di ammalarsi e quindi non potersi garantire un reddito, un tenore di vita, una qualità di vita paragonabile a quella che hanno in questo momento. Il servizio medico è in peggioramento, ci informa sempre questa inchiesta di Newsweek, e quindi questa paura anche di non riuscire a tenere il ritmo in qualche modo aumenta. Questo da Newsweek. Dall'Economist, la riforma della scuola invece non italiana, quella di cui si sta discutendo in questo momento in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Si sta discutendo di una riclassificazione di tutte le materie, per cui si suddividerebbe tutto lo scibile da insegnare già dai bambini delle elementari in 6 aree di apprendimento. Il servizio dell'Economist ironizza anche un po' su questo aspetto, perché come spesso accade in queste riforme alcune materie tradizionalmente di riferimento vengono poi aggregate sotto cappelli, sotto contenitori i più vari, tipo comprendere la salute fisica e lo star bene, la comprensione della salute fisica e lo star bene, che più o meno crediamo di capire stia all'incirca per l'educazione fisica o educazione motoria, come si voglia chiamare, insomma. Ci sono anche molte proteste, viene riferito dall'Economist, per questa ipotesi di riaccorpamento, che peraltro è stata prodotta da un studio commissionato direttamente dal governo per cercare appunto di riformare un sistema scolastico, quello delle primarie nel Regno Unito, che dà molto da pensare ai sudditi di Sua Maestà britannica. Restiamo all'estero, perché settimana scorsa non vi ho parlato della copertina del mensile Sole 24 Ore, il che trovate in edicola appunto già da venerdì della scorsa settimana e continuate a trovare sempre con il quotidiano. La copertina appunto è intitolata a questa domanda: Osama o Obama? E la spiegazione di questa curiosa domanda è: mode, riti e miti dei giovani islamici. Dal Pakistan a Dubai, viaggio inchiesta su una generazione in bilico tra due mondi. Perché in bilico tra due mondi? Si spiega poi nell'inchiesta che trovate appunto realizzata da Paolo Martini all'interno del mensile Sole 24 Ore, che queste nuove generazioni nei paesi diciamo anche a forte tradizione islamica si vanno occidentalizzando, e queste generazioni, soprattutto quelle allevate a pane e internet, che hanno avuto la fortuna di nascere nel mondo nuovo della comunicazione istantanea. In una parola, si chiamano millennials. Millennials sono i digital natives, cioè i nativi, coloro che sono nati nell'epoca digitale, secondo un'altra felice definizione della società di ricerca più famosa per le tecnologie di informazione, che è la Gartner. Se poi dall'Iran, scrive sempre Martini, si va a guardare più liberamente ancora tra la gioventù di Dubai, tutta MTV e Gucci, si tocca con mano l'avanguardia dell'occidentalizzazione della nuova borghesia musulmana. Questo cambiamento che sta interessando ragazzi e ragazze dei paesi arabi, divisi appunto, come propone un po' curiosamente la copertina di tra Osama e Obama, è analizzato nel mensile del Sole 24 Ore, il che trovate ancora in vendita insieme al quotidiano. Allora, vi dicevo che è un periodo di inchieste, un periodo di sondaggi e un periodo di numeri. Ho trovato qualche numero curioso, davvero un numero molto curioso, su Focus, che è da pochi giorni in edicola, è un numero che sono sicuro farà discutere, dividerà a metà gli ascoltatori. Oltre la metà delle donne, risulta, mette in valigia oltre 50 capi di abbigliamento per una vacanza di 2 settimane. Sono sicuro che questo dato, che sicuramente è un po' alto, farà però discutere gli ascoltatori e le ascoltatrici. Le ascoltatrici non si riconosceranno naturalmente in questa stima, gli ascoltatori probabilmente invece la troveranno abbastanza vera. Altri numeri li ricaviamo da Panorama. Panorama ci segnala, restiamo come si dice in famiglia, la situazione degli asili nido in Italia e nel mondo, e fa un po' specie vedere da questa classifica che l'Italia è davvero in una posizione molto arretrata, perché siamo tra il 6-7% di disponibilità di strutture in Italia per bambini da 0 a 3 anni. Pensate alla Danimarca, che guida questa classifica di livello mondiale, oltre il 60%, poi Islanda, Norvegia, ma gli Stati Uniti per esempio sono al 35%. L'elaborazione è stata fatta sulla banca dati dell'OCSE. Fa parte questo dato sulla carenza di strutture per i bambini da 0 a 3 anni in Italia dell'inchiesta di copertina di Panorama di questa settimana, alla fine dei bambini re. I loro bisogni prima di tutto, l'incapacità di decidere, l'assenza di autorità. Per anni tanti genitori sono stati sudditi dei figli, ma le cose, avverte Panorama, stanno cambiando, i grandi tentano di tirare giù dal trono i piccoli tiranni. Alziamo appena appena l'età, perché c'è una riforma che in Francia fa molto discutere, quindi ci spostiamo ancora, ma restando sulle riforme nel mondo. La riforma del codice penale per quanto riguarda i minori, si parla del carcere, della possibilità di incarcerare anche minorenni già dai 12 o dai 13 anni, l'età è ancora in discussione, in realtà è tutta la riforma che è ancora in discussione, ma ne parleremo poi direttamente un po' meglio sulle Nouvelle Observateur. Ci avvisa però Panorama di un dato invece interessante per l'Italia. L'Italia risulta in controtendenza per i reati minorili. Nel 2007 sono stati 3.385 i ragazzi arrestati, erano 4.000 10 anni fa. I ricercatori dell'Eurispes, scrive Bianca Stancanelli, nell'ultimo rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, spiegano che i tassi di delinquenza minorile registrati nel nostro paese diminuiscono in modo pressoché costante. Sempre secondo l'Eurispes, il riferimento è di Stancanelli su Panorama, la situazione italiana appare oggi decisamente meno grave rispetto a quella della maggior parte dei paesi europei in condizioni economico-sociali simili alle nostre. Sullo sfondo c'è poi uno scenario in continuo mutamento. Nel primo semestre del 2008 risultano, secondo il criminologo Enrico Savona, una diminuzione delle denunce di reato e un aumento del numero di reati per i quali è stato identificato l'autore. Tra quegli autori di reato si contano più minorenni che nel primo semestre 2005. Non c'è contraddizione, in realtà questo sarebbe spiegato con la maggiore efficacia nel contrasto da parte delle forze dell'ordine. Però il dato positivo è appunto che non sembra esserci in Italia quell'allarme, o ancora, ma forse non sembra esserci del tutto, quell'allarme che invece in altri paesi, come la Francia, sta facendo discutere della possibilità di incarcerare i minori. E su questo argomento di possibilità di incarcerazione dei minori torna naturalmente le Nouvelle Observateur. C'è molto dibattito in Francia, ci sono anche polemiche. Nouvelle Observateur ha un paio di corsivi abbastanza aggressivi nei confronti di questa proposta. Tra l'altro, sempre dal Nouvelle Observateur, c'è anche una inchiesta molto interessante sul falso. Falso e falsari, si avvisa che oramai non vengono più falsificati soltanto, che so, le borse piuttosto che gli abiti, ma c'è una quota consistente di prodotti falsificati che riguarda le medicine, ad esempio. I giochi e giocattoli sono un allarme effettivamente anche da noi. Sulle Nouvelle Observateur tutti questi dati vengono suddivisi per quote di prodotti contraffatti rilevati in Francia nel corso degli ultimi anni. Magazine 24. Bentornati al nostro appuntamento con i settimanali e con i periodici. Stavamo parlando di falsari, di prodotti falsificati in Francia. In realtà lo stesso articolo di Nathalie Funet che troviamo su Le Nouvelle Observateur questa settimana ci avvisa che c'è indubbiamente una mondializzazione della contraffazione, una massificazione della domanda, una industrializzazione della produzione. Sono le parole del vice direttore e del direttore generale delle dogane a Parigi. Come vi dicevo, i prodotti più falsificati o che comunque evitano di passare dai dazi e dalle verifiche statali sono ovviamente le sigarette. Ci sono stati 2,5 milioni di pacchetti sequestrati in Europa l'anno scorso, ma stanno crescendo fortemente le medicine, appunto, più 51% i sequestri nel corso del 2007, seguite dai giocattoli e poi i prodotti di profumeria e altri prodotti di cosmetica e di igiene. I falsari sono quindi un problema avvertito pesantemente ovviamente in Italia, ma anche in Francia, come riferisce questa inchiesta che troviamo sulle Nouvelle Observateur. E sulle Nouvelle Observateur troviamo anche una curiosa rubrica, una di Jacques Jouillard, che è intitolata Il clan dei siciliani. Il clan dei siciliani però non ha niente a che vedere con la mafia o la malavita organizzata. In realtà qui si sta parlando della crisi economica, della crisi delle borse, ma quello che più diverte, insomma, quello che più incuriosisce di questa rubrica è che Jouillard ha messo in fila un po' tutte le previsioni sbagliate nell'attacco del suo articolo e dice: abbiamo sentito dire che il barile di petrolio sarebbe arrivato a $200, chi ce l'ha detto? Gli esperti migliori. Bene, siamo intorno ai 40. Poi ci hanno detto che un ritorno della crisi del 29 era impossibile, chi ce l'ha detto? I migliori economisti. E tutti invece i dati ci confermano che purtroppo era possibile una riedizione della crisi del 29. Ci hanno detto poi che i metodi alla Keynes erano assolutamente inadeguati, che l'intervento dello Stato era un ostacolo per la crescita. E chi ce l'ha detto? I migliori liberali. Bene, al giorno d'oggi gli Stati Uniti, ma anche gli altri paesi europei, verrebbe da correggere, hanno nazionalizzato in massa o sono intervenuti in massa per sostenere l'economia. Quindi previsioni sbagliate in campo economico. La fine dell'anno è sempre anche un periodo di previsioni in qualche modo che si fanno per l'anno nuovo, ma si trovano su altri settimanali piuttosto che sul Nouvelle Observateur. Focus, ad esempio, non perché Focus riporti previsioni astrologiche, tutt'altro, invece presenta una importante previsione che è relativa alla cosmologia, cioè alla ricostruzione della Terra. Dice, ma potrebbe essere che la Terra sia in una bolla al centro dell'universo. Voi dite, che cosa cambierebbe? Cambierebbe che tutto quello che crediamo di sapere sull'universo dovrebbe essere un pochino modificato. Cioè, il senso di questa inchiesta, molto bella peraltro, difficile anche da riassumere, è che noi abbiamo sempre pensato all'universo come una proiezione di quello che vediamo abbastanza vicino attorno a noi, ma potrebbe darsi che l'universo sia una stanza con dimensioni infinite, spiega Focus, e che ci sia un tavolo sul quale noi ci troviamo in piedi. Se guardiamo verso qualunque direzione si osserva la stanza con le stesse piastrelle e lo stesso soffitto, quindi con identiche caratteristiche. Su questa base diciamo che la stanza è isotropa, tuttavia non è omogenea. Non è omogenea perché? Perché noi possiamo essere in una condizione, appunto, sul tavolo, che ci falsa nella nostra percezione. È tutt'altro che una buttade, è tutt'altro che la trovata di un astrologo, è invece una teoria scientifica che si sta avanzando, un'ipotesi scientifica che si sta avanzando, per la quale si stanno anche cercando delle prove che comporterebbero però di far ripartire da zero tutto quello che sappiamo da Copernico in poi. E sempre su Focus c'è una bella inchiesta dedicata alle scatole, cioè agli imballaggi. Natale è un periodo in cui si ha molto a che fare con confezioni, pacchi, pacchetti, pacchettini, e Focus ci propone una interessante analisi in prospettiva storica sulla scatola. La scatola, o diciamo il contenitore più in generale, accompagna l'uomo da 10.000 anni, ha reso possibile tra l'altro l'agricoltura, la musica e lo sviluppo della civiltà. Questo perché? Perché si spiega che quando sorsero i primi villaggi, cioè gli uomini non erano più nomadi tendenzialmente, gli uomini iniziarono a far muovere i prodotti, così trasporto e conservazione diedero origine agli imballaggi, al contenitore diciamo, e al coperchio. Tra l'altro il coperchio, poi coperchio e imballaggi potevano anche diventare ad esempio i primi strumenti musicali. La vera rivoluzione, avverte Focus, è la rivoluzione industriale di fine 800, è stata una svolta che ha fatto nascere l'economia moderna e ha consentito di abbattere i costi di spostamento delle merci. Proprio nel 1800 le aziende hanno cominciato a produrre vetro per imbottigliamento, nel 1820 sono stati esportati dagli inglesi i primi cibi in scatola, la latta, che è la lamiera di ferro ricoperta di stagno, era già del 1300. E nel 1846 uno svizzero, Frederick Schönbein, ha realizzato la prima plastica, era il nitrato di cellulosa. Tutta la storia degli imballaggi recenti e meno recenti che accompagnano la nostra vita e probabilmente segneranno anche queste giornate verso il Natale, sono tutta quella storia, dicevo, è raccontata su Focus, che trovate in edicola in questi giorni. E torniamo a qualche numero per fare anche pensare, perché no? Ad esempio, non sapevo, ma credo non fosse una cosa così nota, che c'è una discreta quota di premi non riscossi del Superenalotto e di altri giochi dello Stato. La quota è così alta che qualche deputato ha anche proposto di utilizzare i premi non riscossi per dare poi dei meccanismi di aiuto alle famiglie più bisognose. Il tesoretto per oggi, ci avverte l'Espresso di questa settimana, è servito per parziali sovvenzioni di carattere culturale, ma non ci si è mai dato fondo. Secondo un'agenzia specializzata, Agipro News, nei forzieri dei premi mai riscossi ci sono più di 10 milioni all'anno per la Lotteria Italia e 15-20 milioni all'anno per il Superenalotto. Quindi addirittura farebbero già così quasi 30 milioni di euro a cui abbiamo rinunciato pur avendone diritto, pur avendo vinto. Numeri ancora, ma completamente diversi. Parliamo ancora con l'Espresso del finanziamento alla scuola privata. L'Espresso pubblica un'inchiesta di Riccardo Bocca sulle scuole private e anche le deviazioni che qualche volta si accompagnano alle scuole private. appunto si parla di promozioni garantite, diplomi facili, addirittura anche senza mettere piede in aula. Si raccontano un po' le storture della parte privata, ma anche l'inchiesta, nel corso dell'inchiesta, il vantaggio che poi deriva da alcuni centri di eccellenza che esistono proprio nelle scuole private. Ma la cosa più interessante, il numero di cui volevo parlarvi, è la domanda che è stata fatta in un sondaggio realizzato da Market Research and Technology per l'Espresso: cosa pensa del finanziamento pubblico alla scuola privata? Si è detto favorevole al finanziamento pubblico il 56% degli intervistati e il 33% si è detto invece contrario, non ha risposto il 10%, quindi si potrebbe affermare che 5-6 italiani su 10 sono sostanzialmente favorevoli alla concessione di finanziamenti pubblici alla scuola privata. Non so quanto questo dato fosse assolutamente noto. Così come un altro dato che mi ha incuriosito proviene da Donna Moderna. Donna Moderna ha fatto un sondaggio sulla proposta del ministro Brunetta, che ha detto è tempo di alzare l'età della pensione per le donne. In realtà, come sapete, c'è stata anche una sentenza da parte della Corte UE che lo ha chiesto espressamente per le dipendenti pubbliche. Il 72% però delle elettrici di Donna Moderna che hanno risposto al sondaggio si è detta apertamente contraria. E con questo dato, che lasciamo al ministro Brunetta perché lo possa valutare, io vi saluto, vi auguro buone feste e naturalmente buon Natale. Ringrazio Laura Marchesi per l'assistenza al programma e Filippo Aureggi per l'assistenza tecnica. Ci risentiamo sabato prossimo.